Prima cosa, benvenuti a Bologna e grazie per questa bellissima esposizione. Direi di iniziare appunto dalla provenienza delle opere, da questa prestigiosa collezione. Che storia ha? Che storia tiene? La collezione viene da un collezionista spagnolo che si chiama Julián Castilla. E lui ha raccolto tutte le opere da 20 anni. E la sua collezione è fantastica perché racconta la storia della fotografia attraverso delle grandi maestri e qualcuna delle opere più iconiche di tutta la storia della fotografia. E anche ha un discorso meraviglioso perché ogni fotografia ha una storia fantastica. Forse il collezionista può dire qualcuna delle storie, e anche il collezionista ha voluto dimostrare un po' come la storia ha divenuto un arte autonomo meraviglioso. Una particolarità, appunto, allora chiediamo ai nostri protagonisti a proposito di queste fotografie. Una peculiarità di queste foto. Io quiero contar con esta exposición, lo que quiero contar es lo que ha ocurrido en la fotografía desde el principio del siglo XX hasta con questa collezione io ho voluto raccontare praticamente un po' la storia della fotografia dall'inizio del XX secolo fino ai giorni nostri. Infatti inizia con una foto di Stieglitz, rappresentante appunto del pittorialismo, poi con tutte le avanguardie francesi Parigi, e ciascun fotografo è rappresentato non con una fotografia qualsiasi, ma con una fotografia praticamente iconica, no? Cioè che lo rappresenta. Abbiamo rappresentato i principali fotografi internazionali, però non con qualche fotografia, sino con la fotografia iconica che rappresenta a ese fotografo. Abbiamo anche i principali premi nazionali della fotografia spagnoli, insomma, un po' una carrellata proprio molto completa. E poi abbiamo tutti i premi nazionali di fotografia di Spagna, anche con sue migliori opere. Si è soffermato davanti a un'immagine che tratta da un film. Sì, il fotografo Felix Herrmann riceve un incarico di Dalí per fare una serie di pitture. Sì, Herrmann ricevette un incarico da parte di Dalí, doveva praticamente rappresentare con il cranio di un uomo con sette corpi di donna. E Dalí da questo ha tratto 8 quadri, questo sono anche serviti, cioè è stato anche una parte del cartellone del Silenzio degli Innocenti con come protagonista Anthony Hopkins. Dalí tiene una serie di 8 quadri a partir de esta imagen, y después fue el póster de la película El silencio de los corderos, donde interviene Anthony Hopkins, como sabemos, y Jodie Foster. E in conclusione chiedo a chi ne ha la curatela appunto dell'esposizione una carrellata, maniera un po' sintetica, anche delle sezioni. Una esposizione rapidissima delle sezioni. Si comincia con il pionieri della vanguardia, la vanguardia in Francia e la vanguardia in America, dopo l'agenzia Magnum che ha rivoluzionato la fotografia, tutte le immagini delle strade come le fotografie e anche perché la fotografia è un'arte, e dopo vediamo anche una sezione di Spagna, la Spagna degli anni 50 e anche la Spagna moderna a partire dalla democrazia. E vediamo anche una sezione dedicata all'infanzia perché il collezionista è commosso di tutti i gesti che i bambini hanno e finiamo anche con tutta la sfida della fotografia nell'era digitale, dove si reinventa di un modo fantastico creando de universi che non sono reali. Grazie del vostro prezioso lavoro e di averlo portato a Bologna, onorato di avervi conosciuto. Grazie. Grazie a lei, un piacere. Sì, allora il Herrmann ricevette un incarico da parte di Dalí che doveva praticamente rappresentare con il cranio di un uomo con sette corpi di donna. E Dalí da questo ha tratto 8 quadri e questo sono anche serviti, cioè è stato anche una parte del cartellone del Silenzio degli Innocenti con protagonista Anthony Hopkins. E in conclusione chiedo a chi ne ha la curatela appunto dell'esposizione una carrellata, maniera un po' sintetica, anche delle sezioni. Una esposizione rapidissima delle sezioni.